Dialogo 37. Raccontò Abu Huraira: un giorno l'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e la ben gloria, domandò: chi è il povero? Gli venne risposto: chi non ha denaro né beni. Allora l'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e la ben gloria, disse: tra i miei seguaci il povero è colui che nel giorno del giudizio si presenterà con la devozione quotidiana obbligatoria, digiuno e pagamento dell'imposta coranica in regola, ma anche con rimproveri a uno, maldicenze contro un altro, l'aver causato la rovina economica di un altro ancora, spargimento di sangue di questo e percosse a quell'altro. A ciascuna delle sue vittime saranno date una parte delle sue opere buone, e se le sue opere buone finiscono prima che tutte le sue vittime siano state risarcite, su di lui saranno riversati fino al pareggio dei conti i peccati delle sue vittime, e a operazioni compiute sarà scaraventato nel fuoco dell'inferno.